Rock FM. Rieccoci allora con Oscar in diretta alle 11.32 minuti primi su Rock FM, con 25 anni di carriera, di storia legata agli Statuto. L'album si intitola Elegantemente Rudy, doppio CD antologico. Non è la prima delle vostre antologie, ma sicuramente la più completa, quella che avete lavorato di più per la ricerca sui pezzi, sul posizionamento, per il percorso storico, giusto Oscar? Suppongo di sì. Sì, sì. Era già uscita un'antologia che peraltro è proprio esaurita da tempo, nel 2003, proprio per 20 anni, si chiamava I Campioni Siamo Noi e conteneva soltanto 17 brani. Ci sono 40. E invece qui sono 40 e il prezzo è lo stesso, quindi voleva premiare un po' il nostro pubblico. Giustamente. Ecco, siamo nel 2008, come cita proprio la copertina, 1983-2008, una frase bella che tu hai detto, che riuscite a vivere con la musica. Ed è difficilissimo secondo me in Italia. Molto a meno che difficile. Non fai il turnista, piuttosto che il musicista di mega professione chiuso in un studio, anche ti metti a disposizione, che so, sono un chitarrista e suono negli album di tutti gli artisti di vari generi musicali. Invece voi siete riusciti col vostro stile, con il vostro genere di musica, ad arrivare a un traguardo che forse anni fa nemmeno ci pensavi. Bravo, hai detto proprio giusto. Proprio il nostro pensiero è questo. Noi mai ci siamo posti questo obiettivo, ci siamo trovati a vivere con la nostra musica proprio senza mai dover cercare un successo o scendere a compromessi o escogitare qualcosa a tavolino, e devo dire che siamo stati fortunati, privilegiati. Certo, noi non siamo delle rockstar, abbiamo un tenore di vita da operai, però operai che hanno la fortuna di non faticare come un operaio e divertendosi molto di più, quindi in qualche modo siamo dei privilegiati. Operai del rock and roll. Operai, sì, sì, del soul e dello ska. Rock and roll non è proprio il nostro genere, no, lo so, siamo infatti tanto bravi a farlo. Stavo citando un altro dei componenti qui di Rock FM, che ha nel suo gruppo IPEI appunto Ariele, gli operai del rock and roll. Loro sì, sì, sono decisamente più rock and roll. Devo dire che a cicli e ricicli, e ritorniamo con questo, il genere di musica ska ritorna. C'è stato il grosso boom negli anni 80 dell'Inghilterra, una parte anche in Italia con tanti gruppi italiani negli inizi degli anni 2000. Ora forse quella vena si è un po' spenta, se non tante band giovani che propongono però forse più rocksteady, giusto? Sì, rocksteady o anche ska core, ma è giusto che ci sia una riscoperta anche del suono originale, quello giamaicano. Esatto, proprio dagli inizi, è una cosa molto bella. Il nostro ska essenzialmente fa riferimento a quello del primo revival che dicevi tu, Specials, Madness, questi suoni qua. Devo dire che in generale proprio i ragazzini tendono ad andare a cercare ultimamente delle cose proprio legate alle radici. Tanti purtroppo, qui devo dire purtroppo, invece di prendersi le chitarre in mano e scrivere delle canzoni e suonare, forse anche perché appunto non ci sono gli spazi e le possibilità, preferiscono cercarsi dei dischi rari su vinile, cercare dei dischi su eBay eccetera, e poi fare i DJ in giro, che è una cosa molto interessante e positiva. Però c'è molta meno gente che vuole scrivere della musica e suonarla, e questa è secondo me una cosa brutta, perché ci si esprime comunque di meno mettendo dei dischi invece che suonare. Ho capito, questo era anche, poi parlavamo prima di iniziare il discorso di internet, di queste giovani band, giovani generazione nuova, che con le varie classiche pagine di MySpace permettono di essere contattati, di essere noti un po' a tutto il mondo, anche se però poi, come dicevi giustamente tu, manca il fatto che non ti fa suonare dal vivo. Esatto, perché uno poi è bello far sentire le proprie produzioni in rete, però il confronto col pubblico su un palco è fondamentale, specialmente per dei ragazzi giovani che devono ancora farsi tutta un'esperienza. È anche gratificante, quindi poter andare a esprimersi e esibirsi nei locali, ma i locali attualmente sono sempre di meno, chiedono soltanto cover band, e chi fa della propria musica, dei propri brani, è relegato a poterla mettere solo in rete. Quindi secondo me l'internet ha fatto sicuramente del bene dal punto di vista così promozionale e conoscitivo, ma ha fatto anche tanto danno proprio dal punto di vista professionale della musica, e chi ne farà le spese, ne sta facendo le spese, sono soprattutto i gruppi giovani, quelli che iniziano oggi, e io spero che si trovi un modo per poter dar modo veramente, scusate il gioco di parole, ai giovani ragazzi di suonare in giro per l'Italia, perché senza concerti, senza il palco, la vita del musicista non ha senso. Non è nulla, appunto. Ormai con un computer eccetera puoi fare tutto in casa alla fine. Questo, sì, sì, puoi farti un LP, puoi farti un disco, puoi fare tutto, però esibirsi poi a fare, magari ci si inventa il concerto in rete fatto in casa, chissà, potrebbe essere, però insomma è sempre un'altra cosa. Eh sì, è tutta un'altra cosa avere il pubblico davanti, certo. 10, 50 o 3.000 persone, perché voi penso nell'arco della vostra ormai 25ennale esperienza avete suonato portato in tutti i posti. Bravo. Magari. Lo so che è brutto, sali sul palco, ci sono solo 10 persone, però dici, questi 10 meritano che io suoni come se fossero 10.000. Bravissimo, sì, perché se tu vuoi fare quello, se pensi che quella sia la tua attività, devi sempre dare il massimo, e poi ci sono situazioni che magari vai per quello. Non è che dici, salgo scazzato perché c'è poca gente. E ci mancherebbe altro. Non è giusto, proprio per quei 10 che sono venuti. E invece non, l'estero, c'è stato vari raffronti all'estero. Ma cantando in italiano purtroppo, specialmente il nostro genere, non è che ci sono molti sbocchi. Spazio. Abbiamo fatto qualche data in Francia, vabbè in Svizzera, ma quello è normale, e direi che il nostro concerto più importante della storia all'estero è quello che abbiamo fatto a Cuba, in Plaza dell'Evoluzione a La Habana. È andato molto molto bene perché siamo stati affiancati alle star della musica locale, c'erano anche i Modena City Ramblers con noi, ed è stata veramente una bellissima esperienza, 200.000 persone, poi la televisione cubana aveva trasmesso più volte prima del nostro concerto il nostro passaggio sanremese, e quindi già conoscevano quella canzone. Sì, sì, sì, quindi è stata veramente una bellissima esperienza. Invece ritorno a parlare del booklet, quanto avete lavorato per ritrovare queste foto che vi ritraggono giovanissimi agli albori eccetera. Devo dire che è stato molto bravo il nostro batterista Nasca, che lui tiene tutto, ecco, ci sono anche c'è volantini, qualcuno che scalette, ci sono proprio, lui è veramente molto così preciso, e questo ci ha permesso di poter mettere in questo booklet delle foto divertenti, anche così un po' preoccupanti se notate dei cambiamenti, e poi ci sono anche parecchie scalette dei concerti, cosa che può così interessare, in effetti è vero, e manifesti, un po' di tutto, ecco. Sicuramente l'archivio per un gruppo che sono 25 anni è molto nutrito. Perché non ci pensi mai mentre stai facendo queste cose, dici sì, vabbè, c'è tempo, ma figurati dove metto queste cose, non ho spazio, eccetera, e invece poi alla fin fine è servito. È servito, sì, io questo errore l'ho fatto addirittura con i dischi, a me mancano dei dischi nostri, quindi figurati. Vedi un po' te. Bene, allora Oscar, siamo arrivati addirittura ad arrivo, ma tra questi 40 pezzi, uno è nuovo. Uno è nuovo ed è proprio una canzone nel classico tipico stile degli Statuto, volutamente estivo, con delle parole decisamente non impegnate, decisamente così ironiche e solari. Abbiamo voluto celebrare questi 25 anni facendo la canzone proprio nella, quelle che sono così le nostre caratteristiche più affermate. E con questa noi auguriamo una buona estate a tutti gli ascoltatori, sperando che tutti abbiano modo di divertirsi, di passarsela bene, a discapito della crisi che c'è in giro, ma insomma cerchiamo di divertirci, almeno quello. Ok, io ti ringrazio Oscar. Grazie a te, grazie a voi, e in bocca al lupo per la radio, mi piace veramente tanto. La radio appunto, come sai, il 31 terminerà, se settimana prossima siete tu e la band in circolazione, in giro, e volete venirci a trovare, abbiamo anche qua degli strumenti, e qualcuno se vuole imbracciare una chitarra e cantarci qualcosa è libero di farlo. Guarda, faremo, non ti prometto niente, ma magari faremo molto può. Volentieri. Grazie Oscar. Grazie allora, a te. Il pezzo si intitola Qualcuna da Mare. Qualcuna da Mare. Senza l'apostrofo, è proprio diviso da Mare, poi vi giocate voi naturalmente col titolo. Grazie ancora, ciao, ciao Oscar. Ciao, grazie. Minuscoli, segni al vento, che felicità, io ti amo signorina, che prendi il sole e luna innanzi a me, non spostarti più, io ne guardo negli occhi ma vedo solo e rotondità, c'è profumo di crema che più abbrondante al mondo non c'è, io ti amo signorina. Io ti salvo, che ho bisogno di qualcuna da mare, dove il sole scalda di più, qualcuna da mare, che mi culli sulle onde blu. Aspettiamoci un pedalo, fino al largo io ti porterò, quando un bacio ti chiederò, non potrai più dirmi di no. Io ti amo signorina, che prendi il sole e luna innanzi a me, fai il tuffo, non importa se non sai nuotare, io ti salvo. forte sei tu, sugli scogli mi arenerò, mia sirena io ti suonerò, io ti voglio signorina che, io ti amo signorina che, prendi il sole nuda innanzi a me, fai un tuffo non importa se non sa nuotare, io ti salvo che ho bisogno di te. Oh, ultimi secondi di questo brano di Peter Frampton. Ringrazio ancora Oscar e gli amici che hanno scritto, a cui ho fatto leggere naturalmente, e vi ringrazia. Ora è scappato, ha di nuovo il treno, deve ritornare in quel di Torino. La prossima sarà anche l'ultima canzone che chiuderà l'appuntamento di questa nostra ormai tarda mattinata. Ci avviciniamo al mezzogiorno, tra non molto ci sarà anche Claudia. Questa sera mi chiedono se c'è Arden Derby. Beh, sono le repliche, quindi ieri sera abbiamo chiuso ufficialmente, questa sera, domani sera troverete le repliche della puntata del lunedì e del martedì. Poi vado a salutare tramite il sito rockfamily.it coloro che compiono gli anni quest'oggi, che si sono iscritti, non è detto che siano all'ascolto in questo momento, che sono Arnex 51 anni, più anziano, quindi estremo rispetto. Poi Elia 0 29 e Morgan FW 30 anni. Va bene, auguri a loro. Ringrazio ancora una volta a nome mio e di Ariel, che è già andato a riposarsi, Christian. Ciao Christian. Cristiano, semplicemente mancava la mai, esatto, qui Cristiano, anche tu frequenti, sì, Rock Family. Frequentatore di Rock Family. Con che nickname? Garbo. Garbo, quindi vado a salutare tutti gli amici che in questo saluto momento anch'io, tutti sono quanti connessi, sono un 27 online. Teniamo in questo duro, momento, ragazzi. Ok, io ti ringrazio, grazie, grazie per le squisite focacce che arrivano da. Un po' di pubblicità, eh? Non fa mai male. Esatto, vai. da Monza Centro. Bravo, bravo. Allora, ci ritroveremo sicuramente nelle prossime giornate. Chiaro. Grazie Cristiano, buona giornata anche a te. Chiudo ufficialmente il mio appuntamento per questo mercoledì 21 maggio con questo pezzo dei Cure e vi rimando a domattina puntuali, precisi, dopo l'appuntamento di Zone Rock and Roll But I Like It con Ariele, direttamente qua dalle 9 alle 12 su Rock FM. Da Marco Gravelli è tutto, ciao!